Voglio descrivere un momento che probabilmente non è mai successo, ma ho capito che in questa storia mi capiterà spesso di mescolare realtà e immaginazione, perché la vita che voglio raccontare è piena di buchi, fatti incerti e non registrati, che voglio provare a riempire almeno immaginando il contesto in cui hanno avuto luogo. Perché di fatto fino a un certo momento credo che quella di Maria Silvia Spolato, la protagonista principale di questa storia, sia stata una vita simile a molte altre. Una vita di provincia che più si affacciava all'età adulta, più diventava stretta e opprimente, in qualche modo sbagliata. Una vita probabilmente uguale a quella di altre persone vissute negli stessi anni, in città o addirittura nazioni diverse. Persone che a un certo punto capivano di essere lontane anni luce da quello che la società intorno si aspettava da loro. Insomma, la scena immaginata si svolge nel 1951. È una domenica pomeriggio in una casa borghese del centro di Padova. La casa in cui immagino abbia vissuto da ragazza Maria Silvia. Mi immagino un appartamento dal corridoio lunghissimo, un po' come la casa in cui è ambientato la famiglia di Ettore Scola. Dopo pranzo, Gino ed Eluria, i genitori di Maria Silvia, riposano nella penombra degli scuri chiusi, ma lei, che all'epoca ha 16 anni, non ne vuole sapere di dormire di pomeriggio. C'è una storia che ha intravisto sull'ultima copia di Oggi, la rivista preferita di sua madre, e la vuole assolutamente leggere. E quello, mentre tutti sono assopiti, sembra il momento perfetto per immergersi nella lettura. La storia si intitola A 20 anni Maria Alice si rifiutò di restare donna. E sotto il titolo a sinistra c'è la foto di una persona di circa 30 anni, in abiti maschili, con i capelli corti pettinati all'indietro e le mani in tasca. Quella foto in qualche modo sembra parlare a lei, ma una volta terminata la lettura avrà voglia di strappare il giornale in mille pezzi. Mi chiamo Sara Poma e questo è Prima, la storia della prima donna ad aver fatto un coming out pubblico in Italia. È la storia di come stavano le cose prima e di come, grazie al coraggio di alcuni e al sacrificio di molti, sono diventate più semplici, anche per me. Vale la pena leggere l'incipit di quell'articolo che non è inventato, esiste davvero. Vale la pena leggerlo non tanto per capire la mia immaginata reazione di Maria Silvia Spolata a un evento che sicuramente non ha mai vissuto, ma perché il resoconto della vicenda della ragazza che aveva rifiutato di restare donna, protagonista di quell'articolo del settimanale Oggi, pubblicato il 24 aprile del 1951, è molto tipica di come i giornali dell'epoca parlavano di omosessualità e in questo caso di una persona probabilmente transgender. L'articolo comincia così. Si trova in questo momento nelle prigioni di Alessandria con l'accusa di aver estorto del danaro a una signora di Castellazzo Bormida, una certa Maria Alice Bertolotti. La faccenda sarebbe piuttosto banale se la protagonista della vicenda, cioè la Bertolotti, non portasse i pantaloni, non sostenesse di essere un uomo e non avesse dato in smanie quando il giudice istruttore che la stava interrogando le disse in un momento di impazienza: «La smetta di fare commedie e si metta una sottana come tutte le altre donne». Ok, forse mi sono fatta un po' prendere la mano nell'interpretazione, ma volevo sottolineare quanto fosse grottesco il linguaggio usato allora. Questo tono paternalistico di risata sotto i baffi, che fa arrabbiare tantissimo anche me oggi nel 2021, continua per tutto il resto dell'articolo, che di fatto racconta una storia che da sola meriterebbe un altro podcast. Provo a riassumerla. Prima di quel processo riportato da Oggi, la storia di Maria Alice Bertolotti, che però io voglio chiamare Mario, nome che aveva scelto quando aveva lasciato il paese natale in provincia di Mantova, è veramente avvincente. Appena adolescente, Mario si era unito a una gang, imparando l'arte del motociclismo acrobatico, che gli era fruttato un lavoro durato qualche anno in un circo itinerante. Dopodiché scoppia la guerra e un giorno una pattuglia di tedeschi lo ferma, chiede i documenti su cui ovviamente c'è scritto Maria Alice e, credendo si tratti di false generalità, viene spedito in un campo di concentramento a Vienna. All'epoca Mario è fidanzato con una donna che ha conosciuto qualche anno prima, in una circostanza particolare. L'ha letteralmente salvata da una violenza di gruppo una sera a Brescia, città in cui si era ritrovato a vivere. Dico violenza di gruppo, ma nell'articolo l'episodio è edulcorato, viene descritto più o meno così. Dei ragazzi si stavano solo divertendo un po' nel giorno della festa cittadina. In ogni caso, quando Mario viene internato a Vienna nel campo di concentramento, la fidanzata riesce a ottenere un lavoro all'ambasciata italiana in Austria, per stargli vicino. Ed è al suo fianco anche anni dopo, durante il processo per aver presumibilmente storto soldi alla vedova di Castellazzo Bormida, quella che però non l'ha mai denunciato e che, spiega sempre oggi, aveva perso la testa per amore, tanto che tutti in paese ne parlavano. Entrambe, la vedova e la fidanzata, in tribunale gridano la sua innocenza e dicono, cito infine, non importa se sia un uomo o una donna, sicuramente è innocente. Ma in quell'articolo di oggi, del 1951, sembra tutta una barzelletta paternalistica. Ecco, questo è il genere di articoli che una Maria Silvia Spolato adolescente avrebbe letto ogni volta che si parlava di qualcuno che, come lei, non aderiva alla società dell'epoca. Sarebbe bello dire che questo tipo di racconto morboso sia stato un'eccezione del tempo, relegata agli anni 50, al massimo ai primi anni 60, dissolto con i primi sprazzi di liberazione sessuale. Ma negli archivi si trovano decine e decine di articoli, apparsi per i decenni successivi, anche su quotidiani autorevoli, che trattano l'omosessualità o la transessualità come una malattia da compatire, da prendere in giro, sempre comunque legata a qualche faccenda di cronaca. Tutti gli articoli dei giornali degli anni 50 e 60 che raccontano fatti che hanno a che fare con il mondo omosessuale abusano di virgolettati o di aggettivi come equivoco e particolare, quando va bene. Il linguaggio dell'epoca segue un codice molto preciso. Raramente viene usata la parola omosessualità. Spesso viene preferito un vocabolo dispregiativo come pederastia o una serie di perifrasi che hanno come caratteristica il fatto di essere offensive, torbide e morbose. Delle donne lesbiche si parla meno. Naturalmente restano sempre più invisibili e riescono probabilmente a nascondersi più facilmente in un contesto che proprio non può concepire come una donna non sia moglie e madre, a meno che la vita non l'abbia costretta a essere zitella. In ogni caso, anche se la stampa si accanisce più spesso sugli uomini omosessuali, non faccio fatica a immaginare come queste storie, lette sui giornali, ferissero anche le donne gay. Anche Maria Silvia, che ancora una volta mi immagino in un momento che è completamente frutto della mia fantasia. Eccola lì, nella biblioteca dell'Università di Padova. È l'estate del 1961. Sta rileggendo per l'ennesima volta la sua tesi, che presenterà di lì a un paio di settimane, ma è distratta. Decide allora di sfogliare il giornale che ha comprato uscendo di casa. E dopo le prime pagine che parlano di un muro che sta per essere costruito per dividere la Germania in due, ritrova un fatto di cronaca che i quotidiani riportano ormai morbosamente da un anno. Quel fatto è lo scandalo dei balletti verdi. Si chiama così perché balletti era il termine pruriginoso usato dalla stampa dell'epoca per indicare le relazioni, e verdi perché verde era il colore associato agli omosessuali fin dall'epoca vittoriana, quando Oscar Wilde si era presentato a processo per aver commesso atti omosessuali con un garofano verde all'occhiello. Voglio immaginare che sia questo particolare letterario ad aver incuriosito la Maria Silvia ragazza che, nella mia testa, leggeva il giornale in biblioteca, ma naturalmente sto ancora fantasticando. In ogni caso, lo scandalo era scoppiato nel 1960, sfociando in una specie di isteria collettiva. Da lì seguì un'indagine che durò quasi 4 anni e che addirittura arrivò a tirare in ballo gente famosissima come Dario Fo, Mike Bongiorno e Gino Bramieri, tutti immediatamente scagionati. C'è un libro che è uscito ormai 20 anni fa su questa vicenda, scritto dal giornalista e attivista Stefano Bolognini, che è anche fra i fondatori di Wikipink, il Wikipedia della storia LGBT, un luogo fantastico per ricostruire la storia LGBT italiana. Stefano è anche un grande esperto di come la stampa ha trattato per decenni la comunità queer. L'ho incontrato a Milano in un parco, in una bella giornata invernale di sole. E gli ho chiesto di raccontarmi cosa ha significato lo scandalo dei balletti verdi nella storia omosessuale. Perché questa storia è più importante delle altre? Perché è il primo scandalo mass mediatico italiano in campo omosessuale. Cioè sulla stampa finiscono le vite degli omosessuali, sbattute nella cronaca nera, con un'inchiesta che parte da Brescia nell'ottobre del 1960 che vede coinvolti da prima 4 uomini, poi 10, poi 60, poi addirittura 200 uomini con numerosi arresti e così via. In quegli anni l'omosessualità era relegata alla cronaca nera. Torpitudini, trattenimenti di genere irriferibile. È con questi termini, con queste circollocuzioni che la stampa affronta il tema dell'omosessualità. Si parla di viziosi, di peccatori, di individui pericolosi in qualche modo. Gli omosessuali erano costretti a silenzio, gli omosessuali erano costretti all'invisibilità. Il finire sulla stampa per un omosessuale dell'epoca significava perdere il lavoro, perdere le amicizie, perdere tutto. Un altro dei motivi per cui lo scandalo dei balletti verdi è stato così importante, mi ha spiegato Stefano, è stato il fatto che anche la politica in quel preciso momento ha cominciato ad accorgersi degli omosessuali e ovviamente non è andata bene. L'omosessualità, oltre che nella cronaca rosa, ma il buongiorno così, entrò anche nel dibattito politico, ma l'approccio di quel mondo era da una parte la sinistra che considerava l'omosessualità un vizio borghese, da una parte la destra conservatrice che non poteva vedere gli omosessuali in quanto tali, malati da curare, un vizio e così via, e dall'altra i cattolici, per cui un peccato. Quindi sostanzialmente l'omosessuale era un individuo circondato. L'omosessuale e la lesbica erano individui circondati da una cultura, da una gabbia di pregiudizio. Okay. I balletti verdi non rompono questa gabbia di pregiudizio, la mostrano a noi oggi, a noi contemporanei. Cioè noi attraverso i balletti verdi riusciamo lontanamente a immaginare che cosa potesse essere. Per molti omosessuali la vita allo scoperto era una chimera, era un orizzonte irraggiungibile. Lo spazio per l'amore, per l'affetto, per la gioia, così non era pensabile. Il 1961, l'anno in cui lo scandalo dei balletti verdi occupa incessantemente la cronaca italiana, è lo stesso in cui, l'ho detto prima, Maria Silvia si laurea. Ecco perché me la sono immaginata in biblioteca mentre ripassava la sua tesi distratta, leggendo il giornale. Nei mesi che ho trascorso cercando notizie su di lei, ho scoperto che proprio a Padova, nello stesso ateneo in cui ha studiato, c'è un gruppo di storici che da qualche anno analizza la sua figura come simbolo di donna e di cittadina che ha pagato un prezzo molto alto per le scelte fatte. Si chiamano Giovanni Focardi, Nicolò Dalio e Adriano Mansi. E ogni anno tengono un seminario su Maria Silvia nella Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ho deciso di andare a Padova per incontrare uno dei tre, Giovanni Focardi, professore associato di storia contemporanea, per sapere un po' di più di quella porzione di vita di Maria Silvia, quella di studentessa a Padova. Ci sono andata con Ilaria, la mia curatrice, la persona che condivide con me il culto della memoria e che mi ha aiutato a mettere insieme questa storia. E prima di incontrare Giovanni siamo andati in via Barbarigo, nel centro storico della città, a vedere con i nostri occhi la casa in cui Maria Silvia è nata e cresciuta. Bellissima. Bellissima davvero, una casa con queste tre finestre a arco stupende. Sì, ed è effettivamente come l'avevamo immaginata. E ecco, lì più avanti, sulla destra, nella stessa via, a non più di 50 passi, c'è anche il liceo scientifico Ippolito Nievo, che Maria Silvia ha frequentato. E allora me la immagino mentre esce di casa, letteralmente 3 minuti prima del suono della campanella, correndo con i libri sotto braccio per quei 30 metri forsennati, arrivando trafelata nel grande atrio che dà sul cortile. Il caso, o forse semplicemente l'assetto urbano della tipica città di provincia, vuole che la casa e liceo di Maria Silvia siano distanti pochi minuti a piedi dal dipartimento in cui Giovanni Focardi e i suoi ricercatori studiano la sua vita. Ci siamo visti appena fuori dallo studio di Giovanni e gli ho chiesto subito qualche dettaglio in più sulla studentessa Spolato. La prima cosa che è emersa è che la laurea è ottenuta con 110 lode riportata sulla sua pagina Wikipedia e sugli articoli apparsi online dopo la sua morte, e la carriera accademica che ne sarebbe seguita, beh, non è andata esattamente così. Dunque, lei si è iscritta nel 53, si laurea l'11 luglio del 61, la media con cui si laurea è del 22,4, appunto 4 esami ripetuti e il voto finale 85 su 110. Di per sé sono delle informazioni che non cambiano nulla di tutto ciò poi che riguarda la vita di Maria Silvia Spolato, però a me ci hanno fatto capire, a noi tre, che le informazioni che trovavamo a giro in quel momento lì non erano proprio attendibili, non erano, come dire, verificate. Quindi viene fuori che non è una studentessa modello e va bene, ci sta anche più simpatica. Viene fuori che non lavora all'università, nel senso che non si trovano tracce. A quel punto, come dire, ci incuriosiamo un po' di più e cerchiamo di ricostruire la sua vita andando in cerca di altri documenti, altre fonti che potessero in qualche modo dirci che cosa aveva fatto, chi era Maria Silvia Spolato. Quindi lei si laurea e poi cosa succede? Succede che a differenza di oggi, uno che si laurea, oddio, a matematica oggi ancora è così, per cui trova facilmente impieghi e occupazioni, però all'epoca era senz'altro più comune, anche perché si laurea nel 61, sono gli anni del boom economico e in qualche misura, qualche settimana dopo, lei si impiega alla Pirelli di Milano e quindi lei probabilmente ha potuto scegliere, ha voluto scegliere e andare nella grande Milano. Cosa abbia fatto a Milano Maria Silvia dal 61 al 66 è qualcosa che non sappiamo. Alla Pirelli lei rimane per 5 anni fino all'ottobre del 1966, quando si licenzia, ovvero è probabile, questa è una nostra ipotesi, che la scomparsa del padre nel luglio del 66, verso la fine di luglio del 66, abbia determinato in qualche modo un suo rientro presso Padova dalla madre. Ecco, un'altra cosa letta online che si rivela sbagliata è che Maria Silvia abbia partecipato alle prime agitazioni di piazza a Milano nel 68. O meglio, chissà, magari da Padova qualche volta si sarà spinta fino alla Milano turbolenta di quel periodo per unirsi alle proteste degli operai e degli studenti. O magari avrà partecipato ai funerali delle vittime di Piazza Fontana nel dicembre 69. Ma anche questo è totalmente frutto della mia immaginazione. Quello che è certo, e c'è la certezza della ricerca di Giovanni e del suo gruppo, è che dal 1966 in poi, dalla sua casa di Padova, si iscrive a diversi concorsi per diventare insegnante di scuola media superiore. Tra le possibili opzioni di una persona neolaureata c'era evidentemente all'epoca, visto che si parla anche di riforma della scuola, la scuola media unica dell'obbligo del 60, nei primi anni 60, la Maria Silvia Spolato presenta una serie di domande al rettorato di Padova per avere una copia certificata degli esami fatti e del titolo di studio. Questo c'è scritto nei fogli ai fini di concorsi da fare nel settore della pubblica istruzione per l'insegnamento. Sono domande che troviamo sia del 61-62, quindi agli inizi, appena neolaureata, che alla fine degli anni 60. Alcune di queste domande sono fatte anche da sua madre, a nome di sua madre. Un'altra cosa che sicuramente accade in quel periodo padovano, mentre Maria Silvia è tornata nella casa natale, è la stesura del suo primo libro. Non un libro sulla militanza politica, bensì un manuale destinato alle scuole medie intitolato Gli insiemi e la matematica, che nel 1969 viene addirittura pubblicato da Zanichelli, che lo ristampa per 3 anni di fila. Anche in quel caso la scelta del tema non è casuale. L'insiemistica è una specie di piccola rivoluzione che nasce proprio negli anni 60 per insegnare e apprendere la matematica in maniera più semplice e democratica. Insomma, anche in questa prima pubblicazione di Maria Silvia in qualche modo si vedono i semi della visione politica innovativa e inclusiva a cui avrebbe dato voce negli anni a venire. C'è un'altra piccola traccia di quel periodo di Maria Silvia, una poesia che verrà pubblicata solo qualche anno più tardi, nel 1972, ma che è stata scritta nel 68. È una specie di poemetto psichedelico e futuristico sull'amore fra due donne o due creature spaziali chiamate Delta e Beta, che si scambiano messaggi d'amore attraverso onde elettromagnetiche, fino a che non arriva un robot malefico a sabotarle. Proprio il genere di poesia che mi aspetto possa scrivere una matematica. Ecco un verso. Robot passava le sue giornate col suo light and sound detector, ispezionava l'etere per curiosare e poi, conoscendo i fatti di tutti, sfruttarli a suo vantaggio. Intercettò i loro messaggi e cominciò a fare rumore. Le frasi che Beta e Delta si inviavano sulla loro lunghezza d'onda cominciavano ad arrivare a destinazione, affievolite e confuse, disturbate spesso da rumori assordanti. Robot non capiva quello che Beta e Delta si dicevano. In ogni caso, sarà stato qualche contatto con i circoli femministi che si stavano formando a Roma? Sarà stata la volontà di seguire qualche amore di cui non abbiamo traccia? Oppure più probabilmente sarà stata una semplice chiamata dal provveditorato per un incarico di insegnamento nel Lazio. Fatto sta che nel 1970 Maria Silvia si trasferisce a Roma, dove concentrati in un paio d'anni compirà una serie di gesti insieme ad altri individui coraggiosi e matti quanto lei, che spianeranno la strada a tutti quelli che verranno dopo, me compresa. Prima è una produzione di Spotify Studios in associazione con Cora Media. Executive producer Jacopo Penzo. La cura editoriale è di Ilaria Orru con il supporto di Alessio Olivieri. Registrazione, sound design e musiche di Francesco Ferrari per Frigo Studio. Il fonico in presa diretta è Francesco Cego per Frigo Studio. La sigla originale è stata scritta e suonata dai Berlinist. Grazie a Emanuela Colli per aver prestato la voce a Maria Silvia.